cambio forma, mi adeguo alla necessità. Divento un'ombra, posso anche trattenere il respiro. Io non ho tempo per vivere, ho altro da fare. Devo collezionare cose di cose, ora io non ti posso spiegare. Io non ho tempo per vivere, farei quello che non conviene. Devo quantificare costi e ricavi nella mia vita da origami. E cambio forma, mi adeguo alla necessità. Divento un'ombra, posso anche trattenere il respiro. Per quasi 2 minuti e passa. Restare a galla è una questione di esercizio. Sono palla, rimbalzo da una stanza a un'altra come una vecchia bagascia. Io non ho tempo per vivere, non so contare fino a 20, senza guardare prima dove ti nascondi, per non subire un tana libera tutti. Io non ho tempo per vivere, mi scade il parcheggio. Ho prenotato una vacanza nel 2006, 2 settimane alle Bahamas per i cazzi miei. C'era un'offerta clamorosa per il Black Friday. Cosa sono? Un numerino in fila alla gastronomia. Che cosa sono? Un gualto del supermercato, un fazzoletto usato sul prato. Che cosa sono? I calcinacci nel bosco, il vetro di bottiglie in terra, dopo un'Italia e Inghilterra, io sono quel che resta di me. Tempo per vivere. A cu-cu-cu-cu. Sono solo quel che resta di me. Tempo per vivere. A cu-cu-cu-cu.